Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ti vedo ringalluzzito stamattina, peraltro mi sei arrivato in studio anche con la nuova piega, un nuovo taglio di capelli, no, che è successo? La piega, sono andato dal barbiere, non sono andato dal barbiere di Cavalese, quello sai che ti fa accetta pagare pagamenti Bitcoin. In Bitcoin, no, no cara Deborah, no. Pensavo già che fossi andato là così per sperimentare sul campo il funzionamento della criptovaluta, sulla quale oggi il Sole 24 Ore scrive tantissimo perché Moria Longo ricostruisce addirittura la nascita delle primissime piattaforme e come al solito c'è lo zampino di un italiano. E guarda che oggi parleremo anche di Bitcoin, ma cara io, Deborah. Per questo che te l'ho voluta, come dire, servire su un piatto d'argento. Eh sì, perché oggi dobbiamo affrontare. Lo so perché ti sei fatto i capelli tu oggi. Mi sono messo in ordine. Perché sei tutto gasato. Mi sono messo in ordine perché oggi noi dobbiamo affrontare il tema dei serpenti corallo del risparmio. Sì. Ora tu mi chiederai, ma cos'è un serpente corallo? Ma io lo so bene, quindi se la domanda sarebbe retorica, però se ti fa piacere te la faccio lo stesso. Ma che cos'è un serpente corallo? Grazie, non era assolutamente preparata. Allora, un serpente corallo è... Nella dizione quando nostra, facciamo ridere Peter Bescapè, io ho una vuol grande soddisfazione. Che qualcosa funziona. Salutiamo sempre Peter Bescapè che è in ritiro a oltranza, lo sai? L'ho sentito stamattina. La sua squadra è in ritiro a oltranza. Mia, coraggio Peter. Allora dicevamo, il serpente corallo cos'è? Devi sapere, cara Deborah, dovete sapere, cari ascoltatori, che il sottoscritto che vi sta parlando, ma insieme a Stefano Elli e Marco Lo Conte che oggi sono qui con me in studio, ha fondato questo gruppo di pop tributario che si chiama Chapter 11. Esatto. E una nostra hit, il nostro brano più famoso, il Serpente Corallo, che sta a indicare quella cosina graziosa, graziosa, bellina, bellina, che poi ti frega. Proprio. Infatti il serpente è proprio bello. Ti nasconde la fregatura. Il serpente corallo, infatti, in natura è pericolosissimo e velenosissimo. Quindi... Il serpente corallo per i nostri soldi che è quella cosa non, che non t'accorgi che potrebbe esserci la fregatura, ma poi zac spunta. Esatto, che poi non è necessariamente la fregatura, la truffa, ma potrebbe più banalmente essere una disavventura finanziaria, fare un investimento che non ti dà quel rendimento che tu pensavi, oppure che ne so. Non aver letto bene, bene, bene tutte quelle cose riportate in corpo 4. Vai a comprare il diamantino e poi quando è il momento di rivenderlo la banca ti dice ma chi te l'ha detto che io te lo voglio ricomprare? E lì c'è un po' il corallino, diciamo. Tante le cosine che peraltro tanti serpenti corallo che hanno contraddistinto questo 2017 che andiamo ad archiviare. Noi oggi faremo un po' un punto della situazione raccontandovi anche tutte quelle situazioni che non hanno guadagnato la ribalta della cronaca nazionale, come per esempio il caso di cui si sta tanto riparlando di nuovo in questi giorni perché c'è una commissione d'inchiesta sulle banche che ancora sta lavorando e ci sono e audizioni a grande eco sui giornali. Adesso sta parlando il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, per cui tra casi importanti e microcasi ecco il nostro serpente corallo di oggi. Per governarvi tutti e tre oggi io dovrò fare un po' o la pitonessa o la domatrice di serpenti, non so, no, come si chiama il domatore di serpenti? L'incantatore di serpenti. L'incantatrice di non di Firenze, il romanzo di Salman Rushdie, ma... L'incantatrice non me lo ricordo. Deborah Rosciani, l'incantatrice dei Chapter 11. Questo che parla è Marco Lo Conte. Davvero, invece e questo che invece parla adesso... che ha parlato è Stefano Elli. Ecco, voi avete idea già di come andrà a finire oggi. Tutti, io non arriverò mai a mezzogiorno, per cui datemi una mano all'800240024, vi supplico, raccontandoci. Spero che naturalmente... Allora, da una parte mi auguro che non ci siano tante telefonate, no? Perché vorrebbe dire che i malcapitati di disavventure finanziarie sono molti. Però se c'è qualcosa che vi è successo con la banca, con l'intermediario finanziario al quale vi appoggiate per gestire la vostra pianificazione finanziaria, con l'assicurazione, con l'agente... Magari che anche con l'agenzia delle entrate? Esatto. Può succedere che perché, anche lì si annidi il corallo? Perché non è solamente nel mondo del risparmio annidano. No. Perché la brutta sorpresa in materia di soldi, cara Deborah, è sempre un po' lì in agguato. Il serpente corallo, essendo una bestiolina di cui non c'è da fidarsi, e sta lì e ti guarda e quando tu più ti distrai un momento zac ti morde. Esatto. Allora, prima di far cominciare a raccontare tutti i casi che hanno scoperto Stefano Elli, Marco Lo Conte, che peraltro ci parlerà anche di educazione finanziaria perché pure lì ma certamente troveremo qualche parentesi da aprile corallesca, vorrei anche salutare l'ospite collegato telefonicamente con noi perché anche le associazioni dei consumatori ne trovano una al giorno, non ce lo dimentichiamo. È un malcapitato anche lui, povero l'avvocato Martinello, buongiorno. Buongiorno presidente. Ha già capito stamattina come finisce. Lei mi deve aiutare a governare la situazione stamattina. Grazie, va bene. Allora, informazioni di servizio, come al solito ricordiamo agli ascoltatori come possono interagire con noi se trovano spazio in questa tavola piuttosto affollata oggi, in questo studio molto affollato, Mauro. Allora, 349-238-6666, se volete mandarci un SMS, un WhatsApp, segnalarci un serpente corallo o anche, perché no, votare un vostro serpente corallo. Ripeto, come diceva Deborah, non andiamo solo a caccia di casi famosi, non è quello che ci riguarda, ma sono le cose della vita quotidiana. Esattamente, anche quelle semisommersi sono interessanti. Infatti, adesso ci arriviamo, caro Stefano. Naturalmente, se volete scriverci una email anche successivamente, quindi non in diretta, due di denari, attenzione che è scritto a lettera, due di denari, @radio24.it. Ottimo. Allora, io voglio cominciare da Stefano Elli, perché per Plus 24 ne trova una settimana, ma non da quest'anno, da anni e anni e anni, per cui veramente se tu scrivessi un libro di situazioni ancora piuttosto originali e curiose che sono disseminate attorno a noi. Non escludo di farlo. Molto bene, noi aspettiamo e saremo ben contenti di ospitarti anche a Due di Denari. Raccontaci un po' questo 2017, le cose più, i fatti più curiosi nei quali ti sei imbattuto, quali sono stati? Vogliamo parlare delle baciate delle banche, no? Perché esatto, di questo abbiamo riempito colonne. Le baciate non sono però, non è il ballo, perché mi mandi subito in confusione, Stefano. Dai, te l'ho detto anche l'altro giorno. Ah no, perché tu venerdì non c'eri quando ne ho parlato io, perché stavi male, ero con indisposto, quel mal di testa, un mal di denti finto. Allora, sì, io ti faccio il mutuo soltanto se tu compri le mie azioni. Esatto. Ecco, questo succedeva. E questa è una. Però insomma, Pop Vicenza e Veneto Banca si sono proprio contraddistinte per questo tipo di, per questo modus operandi, come si direbbe nel gergo che piace tanto a Mauro. Mi piace il modus operandi, brava Deborah. Andiamo ai casi invece, quelli semisommersi. Quelli semisommersi, ah, ce ne sono bellissimi. Ne abbiamo anche parlato nel corso della trasmissione Il Serpente Corallo. Uno era un signore che, una banda di signori che spacciava lo stesso lingotto d'oro a centinaia di persone che ignare della faccenda. Quindi questi signori venivano convinti. Ma adesso c'è la sharing economy, magari loro erano anche contenti di condividere, sì, questo lingotto. No, ma se io ho capito bene quello che sta dicendo Stefano, guarda Deborah, il problema era questo, che sì, tu davi dei soldi a un tizio che ti diceva così ti compri il lingotto. Esattamente. Però in realtà il lingotto poi non lo tenevi a casa tua, no, o nella cassetta in sicurezza. Ma solitamente se lo teneva il signore che aveva preso anche i soldi di sicurezza. Ma certo, era in custodia e magari i signori pagavano anche per questo servizio, non poi ci vedo niente di strano. Ma se volevi andare a vedere il tuo lingotto d'oro, ti davano la possibilità di andarlo a visitare come i figli in collegio, no? Ecco. Durante le feste. In processione, in missione si andava. Ecco, però Deborah, era molto facile che tu e io avessimo pagato per lo stesso lingotto, tu, io, Stefano e Marco. La famosa comunione di beni. Tutti abbiamo forse comprato, esatto, lo stesso lingotto. Ma qui come va a finire, esatto, Stefano, questa vicenda? È andata a finire in qualche modo? È andata a finire che uno di questi signori è andato a trovare, diciamo, il suo lingotto preferito e non ha trovato più il negozio, la cassetta. Ci ha trovato la farmacia al posto del negozio dove andava. Dove non c'era il lingotto, però, in farmacia. Non c'era il lingotto. Senti, invece, parliamo invece della storia di questa simpatica signora che si chiama Bruna Giri. Ex presidentessa del consorzio Fregene Sicura. Certo, perché i nomi più sono altosonanti, più ci piacciono e ci convincono, ci rassicurano. Questa signora, proprio la scorsa settimana, ha subito una condanna penale a 8 anni e 3 mesi per una truffa intentata a 400 risparmiatori, investitori, non 5, non 10, non 100, 400 sono caduti nella sua rete. Esattamente, 400, forse di più, perché diciamo che quelli che emergono sono sempre molto meno, perché non dimentichiamoci che l'onta la vergogna qualche volta. Non solo, anche l'evasione fiscale, diciamo che molti dei personaggi che sono stati coinvolti in queste truffe, diciamo che sono un po' renitenti al fisco. L'avevano chiamata la signora Lamado Fingo Nella, Lady Madoff, no? Richiamando le vicende del noto truffatore americano, che sì, però lui in carcere ci è finito molto più rapidamente rispetto a quanto non riescano a fare le questioni giudiziarie. Diciamo italiane. Che la signora era riparata nella Repubblica Dominicana, dove aveva trovato alloggio presso un diplomatico italiano, poi c'è stata una precisazione del diplomatico che aveva detto che in buona sostanza la signora pagava un regolare canone di locazione. Ecco, è certo. No, tra l'altro, a proposito di regolarità, poi sentiamo anche Marco Lo Conte, il tema di questa signora che riusciva a collocare fantomatici prodotti di risparmio e di investimento perché riusciva a farlo attraverso la distribuzione di prospetti informativi che riportavano loghi di banche. Scusate, ma no, ecco. No, anche sentivo un eco strano. C'è stato un serpente corallo che si voleva inserire in no, Stefano, cioè nel senso che assegnava prospetti informativi, certo, con loghi di banche note, ecco. Banche non più esistenti però, perché banche che erano state oggetto di fusione e incorporazione. Tipo Anton Veneta, esatto. No, era Medio Credito Lombardo. Ah, ecco. Quindi la signora, tu andavi da questa signora e lei ti proponeva delle obbligazioni o delle azioni di cose che non ci sono più, che non ci sono, inesistenti. Anche di cose inesistenti, sì. Ma questo secondo me va anche stigmatizzato il comportamento dei risparmiatori che non si sono resi conto, non hanno voluto andare a scandagliare, perché sarebbe bastato un banale controllo su Google per capire che quella banca non ce l'ha più da 10 anni. Adesso non diciamo leggete Plus tutti i sabati, però un giretto prima di mettere i soldi in mano a qualcuno. Se la banca non ne hai mai sentito parlare, insomma. Poi la cosa curiosa è che c'erano anche degli sbagli, degli errori di ortografia nelle... Sì, come quelle mail che magari ti arrivano, nelle quali qualche volta si cade in trappola, come nella canzone phishing. Di Eli e le storie tese, io sono una donna bravo, così via. Esattamente così, ecco. Marco Lo Conte, sul fronte dell'educazione finanziaria questo è stato un anno, potremmo dire ricchissimo, intenso, quasi rivoluzionario, insomma, però ancora i frutti, tutto questo lavoro che si sta facendo, anche a giudicare dal dossier di Plus 24 di ogni weekend, appunto di ogni sabato, effettivamente ancora qualche risultato. I risultati non ce ne sono stati, nel senso che è ovvio che questa operazione dovrà dispiegare i suoi effetti in tanti anni, però i è stato semi, un anno importante. Perché dobbiamo associare il serpente corallo anche tutto il tema dell'educazione finanziaria? Beh, perché in assenza di una corretta preparazione sui temi del denaro, è chiaramente il serpente lì che ti guarda e aspetta che ti distrai un attimo, che pensi ad altre cose, e lì se ne approfitta. Chiaramente questo è un anno importante perché c'è finalmente anche in Italia, ultimo paese dell'OCSE, che si è dotato di una legge in cui si dice che ci vuole un controllo sul livello di preparazione, di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, e quindi ora c'è un comitato che sta lavorando per definire una strategia che riguarda i ragazzi nelle scuole, ma anche gli adulti, che così come quando uno va per la strada in auto deve avere una patente, qualcosa del genere bisognerà che si preparino ad avere gli adulti quando dovranno e si troveranno nella condizione di gestire il proprio denaro, perché uno può sbagliare del proprio, però chiaramente quando sbaglia e offre il destro ai serpenti corallo di turno, chiaramente induce anche comportamenti, diciamo, di patologia finanziaria, e dunque chi è maleducato finanziariamente disturba se stesso, ma anche la collettività. Certo, maleducato nel senso di non educato, diciamo, a sufficienza, diseducato. Caro Mauro. No, guardo sempre Marco quando fa questo ragionamento, perché lui mi ricorda sempre che almeno un italiano su tre non capisce un accidente di educazione finanziaria. Posso dire allora, due su tre non arriva a un livello quindi minimo. Anche Stefano sta nelle mie condizioni. Quindi, io non riconosco, cioè, posto un che botto tu sei quello che lupo. Ci spiega l'educazione finanziaria, io sono sicuramente quello, non capisce niente. Deborah ci mancherebbe, è preparatissima. Quindi Stefano, ci hanno dato degli ignoranti. Il 37, ti volevo dire, il 37% degli italiani non sa rispondere, solo il 37% degli italiani sa rispondere correttamente alle domande di base, certo, su inflazione, tasse di interesse, esatto, e diversificazione. Per esempio la diversificazione, no? Cosa ci diceva la nonna? Non mettete tutte le uova nello stesso paniere. A chiederlo alla gente con degli esempi, pochissimi sanno rispondere. Come ai tempi della bolla questa. Internet. Per esempio, molti mettevano tutti i propri soldi, anzi se li facevano prestare. Perseguitato da un signore che aveva messo tutti i soldi in Finmatica. Per esempio. Perseguitato perché? Perché è ancora tutto lì, ovviamente la società non esiste più, hanno ancora questi depositi, titoli incagliati. Altro grosso problema del quale probabilmente qualche volta dovremo anche ritornare a parlare, perché c'è chi ha investimenti in queste società fallite, obbligazioni Ciri e Parmalat, di società appunto che non esistono più, ma la banca non è in grado di smantellare il conto titoli. Paolo Martinello, andiamo al presidente, sì, di Altro Consumo. Anche perché sennò ho paura che lo Conte mi interroghi, invece oggi aveva detto che spiegava. Anche perché c'è lì l'altro tema sui tassi di interesse semplici e composti, e lì vi voglio, vi voglio vedere preparati. No, però preparati. Oggi il professore aveva detto che spiegava. Avvocato Martinello. Ecco, non è capitato nella gabbia di matti, è solo una gabbia di animali, anche noi a nostro modo lo siamo un po'. Va bene. No, io volevo capire con lei, ma chi rimane oggetto di queste disavventure come quelle che raccontava prima Stefano? Ho dato incautamente e anche un po' per colpa mia i soldi alla persona sbagliata. Ma poi i tempi sono sempre molto lunghi, poi c'è il penale prima e poi il civile. Com'è il percorso? Il percorso è molto lungo e molto complicato. Avevo già fatto l'esempio di Madoff, no? Che in poco tempo è finito in galera e ci passerà il resto delle sue vite future, che tutti gli auguriamo, non di una sola ma di tante. No, in Italia non è così, purtroppo, non solo per i grandi banchieri più o meno coinvolti, l'abbiamo visto in passato, ma anche per le piccole truffe, che dovrebbero essere in teoria quelle dove magari uno si aspetta che, preso con le mani nel sacco e con i soldi in tasca, il truffatore di turno, che sia il finto promotore finanziario, il finto intermediario, spesso amico della vittima, no? Perché c'è sempre questa, come il caso della donna che citavate, no? Questa cerchia, questi piccoli truffatori di provincia che fanno grandi danni a spese di centinaia, ma anche poche, a volte decine di persone, ma ci vuole poco per raccogliere qualche milione di euro e scappare ai Caraibi. Ecco, questi non vengono quasi mai presi. L'esperienza è che poi, o quando anche vengono presi, lì la giustizia penale è estremamente inefficiente. Io, come Altro Consumo, abbiamo molti casi di vittime che hanno incautamente dato i soldi a questi serpenti coralli che abitano non nella giungla, ma vicino a casa loro o sul luogo di lavoro. E devo dire che poi questa gente spesso circola tranquillamente, magari ha smesso di fare le truffe, o se va bene, ma raramente vengono puniti e mai vengono puniti in tempi rapidi. Stefano, non guardarci con quella faccia, sei tu che ci hai suggerito di mettere l'X Factor. L'X Factor è bellissimo. Esatto, ma per quale motivo? Perché tutte le società che producono degli strumenti finanziari o vi fanno investire in strumenti finanziari, commodities online, hanno come caratteristica quella di avere una X nella ragione sociale. Allora, quando ieri me lo raccontava, io ovviamente da brava giornalista sono andata a verificare che anche il collega mi dicesse la cosa, a parte gli scherzi, sono andata a controllare sull'ultimo bollettino della Consob e per esempio l'ultima segnalazione che fanno per il piccolo risparmiatore è di questa società che si chiama Top FX24 Limited, che la Consob dice non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia. E quindi è vero, l'ennesima, esatto, ma proprio l'ultima nel bollettino di novembre, eccola qua. No, ma che spiegamela bene questa, Stefano, scusa, spiegala che a tutti gli ascoltatori di Due di Denari. Non è che quando c'è la X c'è il corallo, però spesso noi troviamo dei coralli dove c'è la X, questo è un po' il senso. Esattamente, per esempio, per riagganciarmi al discorso dell'avvocato, c'è stata una società IBS Forex di Como che non ha subito un processo, un procedimento per truffa al pubblico risparmio o per abusivismo del risparmio, ma per bancarotta. E qui è stata diciamo la trovata, l'escamotage della procura. Una volta che la società è fallita, si è pensato bene di procedere nei confronti di questi signori per bancarotta fraudolenta. E quindi le pene sono molto più alte. Però questo è, diciamo, un caso in cui abbiamo avuto una tracciabilità facile del malcapitato. Attenzione, come diceva l'avvocato Martinello prima, spesso è l'amico poi che è quello. Guarda, che ti viene presentato dall'amico. Una dritta da darti bellissima. Aspetta che scriviamo tutti quanti. C'è una dritta da darti. Dai. Spesso comincia così. Ah. Così. Però non dirlo a nessuno, eh? Ah, non dirlo a nessuno, perché poi la voce si sparge troppo e noi diventiamo veramente. Dopo tutti lo, c'è il tutti rischio, lo vogliono. C'è il rischio che tutti lo vogliano, e quindi. Ecco, se esatto. Qualcuno, qualche come promotore. Come il lingotto che se lo sì. Strappano. Adesso c'è un software bellissimo che sta circolando, però. Che cosa fa? Dopo, noi parleremo dopo. Parliamone dopo. Diciamo dopo, va bene. Ma qualche amico da casa lo vogliamo sentire? Ma volentieri, quale te vuoi sentire? Comincerei con la linea 3 dove è Tino. Depositata la telefonata di Tino da Milano. Tino, buongiorno, perché in realtà lui presiede un'associazione che ci interessava molto sentire. Tino. Sì, buongiorno, saluto Stefano Elli che ci conosce. Ah. Sono Tino Volpe, presidente dei piccoli azionisti del Banco Popolare dei tempi. Stefano Elli, devo ringraziarlo perché ha sempre scritto fedelmente tutto quello che dicevamo e quindi è veramente, diciamo, vabbè, uno di quei giornalisti. Gli altri no, vero? Mauro Meazza, lo conti, loro sono un po' infedeli. No, ma sto scherzando, Tino, siamo un po' leggeri. Conosce più, conosce meglio Stefano. Ogni tanto, esatto, a Lodi abbiamo dei giornali che sono molto lo so. Più partigiani. Comunque volevo dire che per le baciate io, nonostante sia del settore, conosca bene, cioè sono un imprenditore, però conoscevo Zonin, conoscevo Sorato, conoscevo Giustini, Elli sa, conosco Saviotti, conosco un po' tutti anche quelli Fiorani. Che erano anche Fiorani. Mamma mia, sa che tombolate che facevate, Tino? Io abito a Lodi. Quindi che Fiorani, fine ha fatto, peraltro? Poi ne parliamo. Tino, sì. Fiorani adesso è nel business nella Nigeria con un altro ricco miliardario. Però ai tempi, ricordatevi che tutti volevano andare alla corte di Fiorani. Sì. Perché Fiorani, adesso non dobbiamo rinnegare, cioè Fiorani ai tempi stava diventando un potente banchiere. Quindi tutti certo. Correvano. E chi se la poi dimentica la passeggiata con Fazio a braccetto? Vabbè. Guardi, che c'ho la mia età anch'io, E quella fu la sua morte, però, perché la passeggiata con Fazio aveva messo da parte Geronzi. C'era anche Chicco Gnutti. Scusate se interrompo questa rimpatriata. L'appello è finito. Quindi Tino, il suo perché messaggio sono serpenti corallo un po' risalenti, esatto. Questi. Volevamo tornare sull'attualità. Vabbè, 2005, Tino. Qualche doloretto lo ritiriamo fuori. Quindi Tino, il suo messaggio qual è? Il messaggio era, sulle baciate prima di tutto è stato un duplice danno, perché le banche con le baciate, io ad esempio sono stato colpito dalla baciata alla Vicenza, conoscendoli, ma non avendo firmato il riconoscimento del debito ti passano in centrale rischi, in sofferenza, e tutte le altre banche ne hanno approfittato perché il tuo rating è peggiorato e quindi certo. Dove avevamo l'utilizzo al 2%, chiusura di credito o comunque inasprimento delle condizioni, e condizioni all'8%, quindi un danno incalcolabile. Bitcoin, ora i bitcoin effettivamente sono a rischio, però lo sappiamo, cioè quello che voglio dire, le azioni ai tempi dicevano sono tranquilli, Zonin mi diceva sei tranquillo, dobbiamo fare 1.000 sportelli, 100.000 nuove azionisti, di qua, di là, lo stesso Sorato, lo stesso Giustini, tutti ne parlavano bene e l'abbiamo preso, tra virgolette, in una certa posizione. Mm. Con le criptovalute oggi tutti ne parlano giustamente a rischio, è una bolla che potrà scoppiare. Bisogna, l'ha detto anche il vice direttore sulle 24 ore, Platerotti, con moderazione considerare le cose negative e positive. Può andare bene, può andare male. Tino, guardi, noi da settembre che con Mauro Meazza predichiamo qua, però non siamo prudenza molto popolari con il Bitcoin. Esatto, molta prudenza. Se volete, Tino, grazie. Bene. Di denari. Alfonso, sentiamolo, perché volevo presentartelo più che altro, Deborah. Perché? Buongiorno Alfonso, adesso ti dico, sì. Capisci perché. Buongiorno Alfonso, ci dica. Sì, no, li ho avuti, adesso non ce li ho più, naturalmente. Accidenti. Non so se mi avete telefonato. No, perché mi hanno segnalato che lei ha avuto fino a 1.000 bitcoin e io dicevo a Deborah, ma guarda, questo signore è un uomo da sposare, insomma. Sì. No, perché semplicemente perché ho cominciato a comprarli quando valevano $2. Ma quanto li ha venduti? No, non li ho venduti, persi tutti. Ah, perché, li ha persi? Sì, perché il sito su cui li avevo è fallito, è crollato e quindi ha dichiarato fallimento. Sono assolutamente imprevedibili e hanno dei crolli improvvisi. Per esempio, ho assistito al primo crollo da $200 a $5. Ecco, questa era una telefonata, uno stralcio di una puntata di Due Denari di non molte settimane fa. Scorsa. Sì, in cui appunto abbiamo intercettato, grazie alla cortesia di questo ascoltatore, una disavventura da Bitcoin. E il Bitcoin ne parlavamo proprio prima di fermarci per l'informazione sulla borsa. È il signor Serpente Corallo, dai, diciamocelo senza... E diciamo che l'hacker è il Serpente Corallo per eccellenza, quello che proprio ti hackera il sito e il tuo Bitcoin puoi salutarlo. No, non hai neanche un'autorità, lo ripetiamo tutte le volte, a cui rivolgerti, non c'è una garanzia per i depositi in Bitcoin. Qual sotto è una certa cifra? Il foro di competenza per un Bitcoin? Ma non si sa neanche chi l'ha fatto il Bitcoin, Stefano, non puoi cercare addirittura un foro di competenza. Ma non era l'ammiraglio Yamamoto quello che aveva fatto? Ma sì, ma sai che è un personaggio trasparente, invisibile, non si sa se esista davvero, c'è tutta la c'è leggenda. C'è un giudice a Berlino? Sì, c'è un giudice al Bitcoin. No, guarda, questo signore che hai citato tu, in realtà, come si raccontano le leggende, sarebbe addirittura un nome collettivo, un po' come Omero, ma addirittura qualcuno dice anche come William Shakespeare, per cui sarebbe una serie di autori. No, sarebbe una serie di autori. Shakespeare non esiste. No, allora Shakespeare come personaggio esiste, ma forse non ha scritto lui. È una cosa complicata. Guarda, vabbè, Leonardo non ha dipinto la Gioconda. Detto questo, caro Marco Lo Conte, sì. MiFID 2 in tutto, sì. Perché lì non c'è MiFID che reggerà di fronte ad una perdita del tuo risparmio investito in Bitcoin. Non potrai andarti a lamentare con la banca che magari ti ha forzato il profilo MiFID, lì fai tutto da solo e attenzione. E così è stato, perché la MiFID 1, entrata in vigore nel 2009, doveva proteggere i risparmiatori, perché chi vendeva doveva anzi tutelare di più quelli con un profilo di rischio più basso. In realtà le forzature sono state talmente facili da parte dell'industria finanziaria che purtroppo è lì il Serpente Corallo ha trovato dei varchi straordinari per inserirsi. E diciamo, e se ti modifico il profilo È facilissimo. Ora arriva la MiFID 2, attenzione, dal 2018 3 gennaio. Fantastico. Aspetta che me lo segno, 3 gennaio 2018. Dai, che ne abbiamo parlato mille volte, lo cambia sai. Tutto, perché il cliente del consulente finanziario dovrà avere un profilo in movimento che dovrà essere aggiornato periodicamente. Ogni strumento finanziario bisognerà indicare a chi è destinato, a chi non è destinato. Insomma, presidi di tutela e di trasparenza molto accresciuti. Ma vogliamo scommettere che la MiFID 2 non riuscirà a proteggere? Perché secondo me l'industria finanziaria difficilmente andrà a raccontare tutte queste belle cose ai clienti. Insomma, il rischio, come mi è capitato di scrivere sabato scorso su Plus, è che la MiFID 2 rischierà di diventare come la corazzata Potionkin. No, basta lì, un serpente corallo. Sentiamo, non è vero, tu sei prevenuto nei confronti della MiFID 2. È vero che sulla MiFID 1, insomma, è stato un po' un giocare a celai, se ricordate quel gioco che si faceva da ragazzini. Esatto. Cioè, sostanzialmente l'intermediario scaricava sul cliente con una firma e poi arrivederci. Ma io non so, avvocato Martinello, ma lei è così negativo come il mio amico Lo Conte sulla MiFID 2? Posso fare una battuta su Bitcoin, però prima? Ah, certo, abbiamo volentieri. Messo a punto una bella metafora per rispondere alle domande dei risparmiatori, che è questa. Giocare su Bitcoin è come andare in una bisca clandestina, si può vincere, certo, se io butto la roulette clandestina, rosso o nero, può darsi che vinco, però corro anche il rischio che mentre la pallina gira mi sparisce la ruota e magari anche la pallina, dopodiché è chiaro che se questo succede me ne torno a casa con le tasche vuote, ecco, questo è, posso anche vincere se viene fuori il nero e tutto funziona, ma c'è il rischio che mi spariscano i soldi, la pallina e la bisca. Detto ciò, la MiFID, le MiFID sono state fatte tutte con grandi buone intenzioni. Qual è il problema? Il problema è che la MiFID riguarda più la forma che la sostanza. I casi delle banche venete lo dimostrano chiarissimamente. Citavate anche voi, no, il caso dei risparmiatori che andavano in banca per chiedere un prestito, un mutuo e uscivano avendo finanziato la banca o avendo prestato loro i soldi alla banca. Dal punto di vista delle MiFID, queste operazioni erano regolari, erano adeguatamente documentate, erano stati sottoscritti moduli, era stato fatto quello che andava fatto, tutti noi siamo stati coinvolti e tempestati per anni dalle banche che ci chiamavano per andare a regolarizzare le posizioni MiFID, eccetera, eccetera. Cos'è che non ha funzionato e non funziona e non è neanche, se vogliamo, forse la MiFID che deve fare funzionare quello? È quello che ci sta dietro. è il contatto col cliente, è il rapporto sostanziale col cliente. Non ci vuole molto a scoprire quando le cose vanno scorrettamente. L'hanno scoperto i rilevatori di altro consumo che andavano nelle filiali, l'hanno scoperto quelli che ci vittime che ci chiamavano, l'abbiamo scritto a Banca Italia, e il vero problema dei controlli di quelle situazioni è che spesso sono troppo formali, si vanno a guardare, gli ispettori vanno a controllare che ci siano le carte in regola firmate, ma quelle ci sono quasi sempre. Non siamo più ai tempi di Parmalat, quando i tribunali hanno annullato gli acquisti dei titoli perché neanche c'erano le carte firmate, ormai quelle ci sono, bisogna fare i controlli mettendosi un po' di più nei panni dei risparmiatori. Infatti le leggo, avvocato Martinello, un bel messaggio di un consulente finanziario di Varese, Francesco, che ci scrive: MiFID 2 in realtà sarebbe anche un bellissimo momento di confronto con la clientela, purtroppo o per fortuna nulla però poi può sostituire la serietà e la correttezza del consulente, ma anche del cliente, che naturalmente deve dirti anche un po' con sincerità, da non trascurare, no? Anche le strategie commerciali molto, molto, diciamo, spinte aggressive delle banche, da parte, certo, delle politiche. D'altronde il mal di budget ce l'avete voi, d'altronde lì a plus. La rete commerciale chiaramente è motivata per raggiungere degli obiettivi, e se le norme a tutela dei risparmiatori sono un ostacolo, un impedimento al raggiungimento di questi obiettivi economici, nei modi leciti possibilmente si sa che si saltano questi. D'altronde, come diceva l'avvocato Martinello, la vigilanza in Italia è una vigilanza formale, cartolare, si controllano le carte, le forme, burocratica, molto compliant, è compliant. Esatto. Allora fermi compliant. Lì, perché adesso qua noi stiamo mettendo sotto accusa l'industria della finanza, del risparmio, ma anche il signor Fisco, che è un grande amico di Mauro Meazza, c'ha le sue pecche. Ma come mai? No, e qua volevo... Comma profondo. Allora, cara Deborah, sì, abbiamo tirato fuori dal cassetto questa rubrichina. Poi ti dà anche Manforte Antonio, da Cagliari, che c'ha il suo serpente corallo. Questa rubrichina gabbia, che avevamo battezzato in estate per appunto il serpente corallo. Questa volta non ti parlo di Fisco, però ti sorprenderò, ma ti parlo della ape. L'anticipo pensionistico, sì, perché per continuità appunto zoologica, dal serpente corallo andiamo all'ape. Cos'è l'ape? L'anticipo pensionistico. Sì, allora, esatto, tutti l'abbiamo aspettato, l'abbiamo atteso, è arrivato. Infatti c'era la legge di bilancio che l'ha detto, commi 166 e seguenti, come ben sai. Come ben so, guarda, non ti voglio annoiare con queste pinzellacchere. Non interrogarmi perché sai che sono preparata. Allora, l'ape social... faticosamente a spallate e partita, domani ne parliamo e domani ci torniamo sopra. Quello che vorremmo ancora vedere è l'ape volontaria. Sì. Allora, il comma c'era, comma 166, il comma profondo. Poi serviva il decreto, dovevamo partire a maggio, il decreto è arrivato in settembre, poi è andato in Gazzetta Ufficiale più tardi, però poi servivano gli accordi con le banche e le assicurazioni. Sì, però mi ricordo poi servivano tutto. Insomma, forse questa settimana, forse ci sono gli accordi con le banche di assicurazione. Il regalone di Natale? Forse, ma ho detto forse... Ce lo impacchettano anche col fiocco? Deborah, non innervosirmi. Ho detto forse da gennaio si potrà chiedere, fare una prima richiesta per l'ape volontaria, poi l'INPS valuterà, poi. Io dico, non è che sia una fregatura un corallo, no, però certo un pochino, sì, il guarda, corallo vero ce l'hanno messo. Fanno con l'allungamento dell'età pensionabile, perché se si sposta l'età pensionabile in avanti, come si sposta, perché c'è il decreto ministeriale, anche la tua ape si fa più lontana. E intanto io e te dall'anno prossimo ci andremo a 66 anni e 7 mesi, giusto Marco? Perché tu sai che ci abbiamo un'equiparazione anche, quindi a dire via tutte le discriminazioni di genere. Detto questo, ascolta, qui possiamo fare due cose: o darti come al solito la tua grande opportunità per fare il lancione, o sentire Antonio da Cagliari, perché ben mi si sposava con le questioni. Se Antonio riesce a stare in un minuto lo manderei immediatamente. Antonio, buongiorno. Antonio. Sì, buongiorno. Ci dica, Antonio. Volevo raccontare un corallo fiscale, diciamo. Oh, volentieri, è il benvenuto. Sì, mi sono capitate due situazioni in contemporanea. Da una parte ho ereditato un credito col fisco di 8.000 euro che mi hanno già detto che vedrò tra due anni. Mm. E dall'altra parte ho ricevuto un avviso dell'INPS per 40 euro che non ho versato. E c'è una multa, mi dicono che se non pago entro 90 giorni ci sarà una sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Bella. Però hanno già detto che sarà quella massima, quindi io lo prendo un po' come una minaccia. Scusi, perché questa multa da 40 Antonio, euro cosa riguardava? No, Antonio, intanto ci mandi tutto a 2 di denari @radio24.it, perché qua noi volentieri. Vogliamo... commesso un pagamento di una trattenuta previdenziale di un dipendente, c'è una differenza che non ho versato di 40 euro. Certo. È una rateizzazione che stavo facendo con grande difficoltà con Equitalia. Signore mio. Bene, no, bene, è un intercalare, come si dice. Ah. Allora, grazie Antonio, aspettiamo il dettaglio della sua disavventura. Sì, ci facciamo una bella... un tuo editoriale. Sì, la analizziamo a fondo. Due di denari. Thanks Magnus. Thanks to all the members of the committee and thanks for that great introduction. So I've been interested in gravitational waves for a long time. Oh no. So no, ho voluto fare lo scherzetto, il neo premio Nobel per l'economia, Robert Thaler. È troppo simpatico. È molto simpatico. E lui sì. È chapter insider, noi lo vogliamo sapere. Ma siccome non c'era lezione di inglese oggi, esatto, allora, cosa detto? Esatto, Richard Thaler, che è premio Nobel per l'economia 2017, è andato a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Non come Bob Dylan. No, lui è andato lì e bello paciarotto, si è messo lì a leggere e ha detto... Grazie, io ho iniziato a occuparmi di onde gravitazionali. No, scusate, ho sbagliato discorso. Ma che mattacchione. Che mattacchione. Ma insomma, è lui che ha cambiato, insieme a tanti altri, la storia dell'economia, perché l'ha portata un po' terra a terra, diciamo così, meno tesi, meno teorie e più concretezza. Beh, insomma, lo fa anche con una certa ironia, indispensabile nel trattare una materia complessa. Me ne sono resa conto stamattina. Ma insomma, ha portato avanti in maniera con grande spinta. Tra l'altro, noi come Sole 24 Ore stiamo procedendo in questa inchiesta, processo all'economia, che prende proprio le mosse da questo riconoscimento. Ricordo, la finanza comportamentale spiega e analizza i casi con cui gli esseri umani prendono decisioni in materia economica, e spesso le teorie che abbiamo visto in passato saltano in aria perché ci sono molti altri fattori dentro di noi che ci portano a prendere delle decisioni spesso non corrette. Ecco qua. Allora, tutto ciò premesso, sì. Ci interessava però anche capire questa iniziativa dei Chapter 11 e sì. Quindi qua, caro Mauro, qua io adesso mi vesto da giornalista che ti intervista, te e i tuoi soci, perché dopo il Nobel all'economia del quale abbiamo appena richiamato le gesta poco fa con Marco Lo Conte, dopo gli Oscar e i Pulitzer, naturalmente so che voi avete questo obiettivo di istituire il premio Charles Ponzi. Sì, Charles Chapter Ponzi. Per la migliore sola finanziaria dell'anno. Sì, è un premio che istituiamo volentieri accogliendo la proposta di Stefano Elli. Esatto, comitato promotore. Che è un raccoglitore, soci, vero? I soci Stefano. Qui non ne sanno niente, ma io ho già contattato Walter Veltroni, Elisabetta Cosa? Sgarbi, il Perché? Re di Svezia, pure. Per avere un suggerimento per come si faccia a istituire un premio così prestigioso. Ecco, ma ci sono delle candidature per il premio Ponzi. Scusate, a beneficio di ascoltatori che non lo sapessero, Charles Ponzi, colui che ha portato appunto lo schema della truffa classico al massimo vertice. Il cugino vertice. Di Madoff, parliamoci chiaramente. Il suo progenitore. Spieghiamo Stefano. Il nonno. Spieghiamo Stefano Ponzi. Come funziona lo schema Ponzi. È come il Tegelet. Cioè, come il celai. Sì, come celai. È ingovernabile la situazione. Beh, Marco Lombardo mi guarda basito, ma io adesso o tiro fuori la frusta e li addomestico. Cioè, uno chiede soldi e dice: ve li do fra una settimana raddoppiati, e la gente glieli dà. E con quei soldi lui paga. E come fa a raddoppiare quei soldi? Perché entrano altri, esatto. No, ma non è necessario che raddoppino, è sufficiente che ci sia un piccolo rendimento. Sì, un rendimento abbastanza significativo per allettare, a doppia cifra o a una cifra? Per allettare i Ponzi, anzi i Gonzi, verrebbe da dire. Esatto, Ponzi e Gonzi. Esatto. Allora, i candidati del 2018 quali sono? E poi ci saranno delle... 2017. Ah già, per quelli che già hanno già fatto. Come funziona questo premio, Stefano? Verrà assegnato l'anno prossimo. Penso che la cerimonia ancora non ho... Il comitato organizzatore è diviso sul punto. Stefano, allora i candidati? Sì. Allora, i candidati sono quello del Lingotto, sicuramente. Il signore del Lingotto, ecco, non case automobilistiche, no, il Lingotto d'oro. Per la migliore sceneggiatura. La nomination ce l'hanno questi qua. Poi c'è anche questo team di softwareisti rivoluzionari, questi ingegneri informatici che lavorano in una delle principali multinazionali del software, certo, che chiedono di non versare bonifici assegni, perché visto che il team lavora all'insaputa delle case di cui sono dipendenti, se si dovesse scoprire scoprire, certo, perderebbero il lavoro. Certo. No, però scusa, quindi... Stefano, qui sembra che noi stiamo celiando, ma veramente c'è in giro una raccolta che somiglia, sì, moltissimo a uno schema Ponzi che funziona così. Ci sta lavorando la Guardia di Finanza, quindi, ecco, non possiamo dare ulteriori elementi. Quindi fate hashtag attenzione, è tutto vero. Esatto, fate attenzione, esatto, se ricevete delle email che vi propongono mirabolanti investimenti con mirabolanti rendimenti su questo software rivoluzionario, magari interessa più alla procura che al vostro portafoglio. Certo, di fronte a tutto questo, Stefano, la signora Giri, della quale abbiamo parlato prima, è una dilettante, ormai è stata pure condannata, e via fuori dalla ribalta della cronaca. Ma direi di sì, a questo punto diciamo che... Una terza posizione le potremmo dare al limite in questo, sì, premio. Sì, però a me piace tanto il guru dell'algoritmo delle scommesse. Oh, e chi è? Chi è? Jorge Antero Silva de Queiroz. Che guru. Che guru, eh? Ma che figuro di guru. Cosa ha combinato questo qua? Questo ha messo a suo quadro Portogallo, Spagna e Francia. Bene, quando, sì, noi non c'è ancora arrivato, ma non... non disperiamo. Non disperiamo. Con un algoritmo che sosteneva sarebbe riuscito a far vincere tutte le scommesse di tutte le, di tutti gli eventi sportivi. Cioè lui te lo vendeva, calcio, questo algoritmo? Sì, lui vedeva dei titoli di questo che conteneva, sì, questo algoritmo, cioè vendevano, sottostante era, diciamo, sì, l'attività che stava sotto questa azione era questo algoritmo che consentiva di vincere qualunque tipo di scommessa sportiva. Un algo, sì, guru. Un algo guru. Scusa, questo l'abbiamo già preso, l'hanno già preso nei paesi di competenza. Dunque, l'hanno preso in Francia, ha provato a scappare, l'hanno ricciuffato. Sì. È come cosa? Come Igor lì? Come, esatto, Igor il russo. Esatto. Va bene, per fortuna meno cruento, molto meno cruento, però doloroso per un'altra parte. Ecco, e questo inspiegabilmente ha cominciato a fare queste stesse operazioncine in una zona molto delimitata del Trentino, quella compresa del triangolo Andalo, Fai della Paganella, Molveno. Ah, quindi un po' è sbarcato anche da noi. Certo, faceva signore delle convention in alberghi, sì, in primo piano, partecipavano molti valligiani, molti locali. E pare che abbia fatto parecchi danni anche lì. E ci credevano che c'era l'algoritmo che ti faceva vincere tutte, certo, le scommesse. Questo era anche titolare di una scuderia di vetture da corsa che si chiamava Good Sense. Allora, qua ci manca un minuto di tempo. Allora, sicuramente ricostituiremo al più presto il trio del Serpente Corallo per continuare a scandagliare all'interno di tutte queste storie che, sì, ci fanno anche un po' ridere, ma qualche volta hanno fatto anche un po' piangere troppe persone. Noi le diciamo per cui... con leggerezza, Deborah, ma in realtà, appunto, state attenti. È un stiamo modo, attenti. Esatto. Avvocato Martinello, 30 secondi di tempo per lei, per le ultime raccomandazioni da presidente di un grande gruppo che monitora queste vicende ogni giorno. Ma spero di poter presentare qualche candidatura se sono ancora aperte. vada sicuramente. Sono molto divertenti, però qualcuna magari meno divertente, ma più seria, tipo quella dei diamanti che già citavate prima, non è male, quella dei diamanti venduti in banca, o addirittura l'anatocismo. Pensavamo fosse sparito, e invece l'autorità antitrust un mese fa ha condannato quattro banche perché facevano anatocismo sugli interessi passivi sui conti correnti. Cioè pensavamo che fossero cose d'altri tempi, invece si ritorna. Perché il serpente corallo, caro avvocato, è coriaceo, è resistente. E produce uova e quindi si moltiplica. Allora, non riusciamo a sentire Fabio da Brescia e Loris dalla provincia di Monza e Brianza, che voleva raccontarci che la scuola di Radio 24 l'ha aiutato moltissimo negli investimenti. Ci fa piacere. Grazie. Rifaremo al più presto una puntata di questo tipo. Mauro, che ne dici? Volentieri, Deborah. Grazie a Stefano Elli, a Marco grazie Loconte, a tutti i serpentoni corallo in onda. Un abbraccio, buona giornata.